eccoci qui, sono le 8:16, ben ritrovati da Alessandro Milan. Vi ricordo che siamo in diretta anche oggi, 1° maggio, cari italiani, siamo in diretta fino alle 9:30 tra l'altro, quindi prolungheremo un po' trasmissione abituale. Voglio salutare tutti coloro che ci hanno detto, vi stiamo ascoltando anche se è 1° maggio. Saluto e mando anche un abbraccio ad Alessio Vinci che mi ha scritto e ci sta ascoltando da Tirana in Albania. Un abbraccione Alessio. E allora, di che vogliamo parlare? Cominciamo da qui. Allora, Giorgio Napolitano in una lettera alla mamma di Federico Aldrovandi ha definito indegni quegli applausi che sono stati riservati al convegno del SAP, che è uno dei sindacati di polizia, agli agenti condannati per la morte appunto di Federico. Tra l'altro ieri avevamo ospite il presidente del SAP, Gianni Tonelli, qui ai nostri microfoni, ha detto anch'io ho applaudito e lo ha fatto perché noi pensiamo che siano vittime di un errore giudiziario e chiediamo la revisione di quel processo. Ieri la mamma di Federico è stata ricevuta dal capo della polizia Pansa, ma tra l'altro quello che mi preoccupa, letto oggi sui giornali, da due giornali diversi, uno Repubblica e uno il giornale addirittura ha messo il titolo in prima pagina, in grandissima evidenza, il titolo di prima pagina è questo: la polizia si spacca. E anche Carlo Bonini su Repubblica racconta, tra l'altro con la testimonianza di un prefetto di lungo corso sotto anonimato, che ci sarebbero ormai, meglio usare il condizionale, due polizie all'interno dello Stato italiano. Una polizia della quale fanno parte tantissime, la maggior parte, nettamente la maggior parte dei funzionari, da agenti fedele allo Stato, e una polizia invece, come dire, arrabbiata perché pensa che non ci sia più legittimazione politica, perché pensa che non ci sia più appoggio politico, insomma democratici e arrabbiati, le due polizie. Ecco, questo un pochino mi inquieta, anche perché ieri è emerso prepotentemente, o meglio da alcuni giorni, ma ieri ci sono stati degli sviluppi, un nuovo caso che farà certamente discutere, quello che riguarda la morte di Riccardo Magherini, che è morto durante l'arresto a Firenze lo scorso 3 marzo. Perché le novità? Perché da ieri sono indagati 4 carabinieri e 5 sanitari che sono intervenuti quella notte con l'accusa di omicidio. Allora, io intanto voglio salutare Andrea Magherini, che è il fratello di Riccardo. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. E saluto anche il segretario generale del SILP, e cioè uno dei sindacati, il sindacato italiano lavoratori polizia, posso dire legato alla CGIL, Daniele Tissone. Buongiorno Tissone, buongiorno. Grazie. Buongiorno, buon 1° maggio. Senta, intanto Tissone, lei concorda nel definire indegni quegli applausi, come ha detto il capo dello Stato? Certamente, noi abbiamo detto dal primo momento e sempre che le sentenze, per di più se definitive, si rispettano, e abbiamo anche detto nel dissociarci che tutte le nostre lotte per la democrazia, della democratizzazione delle forze di polizia, voglio dire, fanno un passo indietro, arretrano rispetto a un gesto simile. Senta, non so se lei ha già letto i giornali di oggi, ma il titolo del giornale mi ha molto inquietato, e cioè la polizia si spacca. E anche leggere il retroscena di Carlo Bonini, legato proprio alle cronache ieri di Federico Aldrovandi, questi democratici arrabbiati, cioè le due polizie. Allora lo chiedo a lei, ma davvero noi cittadini italiani dobbiamo pensare che esistano due polizie che convivano in modo, tra l'altro immagino anche antitetico, all'interno dello Stato italiano? Ma guardi, io posso dire che il tema del nostro congresso recentissimo, che abbiamo celebrato non più di una ventina di giorni fa, era proprio il riconoscimento delle piene libertà sindacali all'interno della Polizia di Stato. Noi riteniamo indispensabile, quanto mai necessario, che si possa addivenire, superando gli articoli dall'83 all'84 anche della legge 121, della legge riforma della polizia, democraticizzando ancora di più la polizia, e cioè dando le piene libertà sindacali, la possibilità di iscriversi alle confederazioni anche per noi, e penso anche al mondo militare, la possibilità di organizzarsi in sindacati, la vedo un passo avanti, sì, da questo punto di vista. Però guardi, questo dal punto di vista della rappresentatività, se vuole, ma quello che scrivono Carlo Bonini e il giornale, male, cioè è proprio dal punto di vista di quello che avviene poi sulle strade italiane, cioè raccontano di una frangia, secondo questo prefetto intervistato dalla Repubblica, che può attestarsi anche attorno al 20% di poliziotti, in questo caso si parla di polizia, arrabbiati, che sentono una delegittimazione da parte delle alte cariche dello Stato e che per questo riversano anche nel proprio lavoro, che è un lavoro delicato, questa rabbia, questo scoramento, questo senso di abbandono. Questo sì, mi preoccuperebbe molto. Sì, sì, guarda, io ho compreso la sua domanda. La mia risposta significava non tanto in termini di rappresentanza, quanto di apertura della polizia anche alle organizzazioni sindacali confederali, nel senso che più noi riusciamo a ragionare in grande e più usciamo da un microcosmo, pensando a tutti i problemi del mondo del lavoro e della società, avere uno spirito confederale vero anche a livello sindacale aiuta in questo. C'è da dire che, ho letto l'articolo, che vi sono delle persone anche al nostro interno che hanno una concezione corporativista e queste logiche, queste chiusure corporative a noi non ci appartengono. Stiamo cercando da qualche anno all'interno anche della nostra categoria di spiegare che se si guarda più ai temi, ai contenuti di interesse regionale, di interesse generale, c'è la possibilità di raggiungere migliori obiettivi. No, perché infatti su questo Carlo Bonini scrive: quella parte di polizia, ma sono parole di un prefetto che viene intervistato, che non serve la Costituzione, se ne ritiene in qualche modo immune, quella polizia che non si fa processare, quella polizia che insomma che si ritiene Esatto, ci sono delle persone, ahimè, questo va confutato, vi sono delle persone che ritengono che ci sia un qualcosa di ingiusto, che serve il nostro paese con la nostra divisa, debba avere, non dico un qualcosa di privilegiato, deve avere delle attenzioni ulteriori e maggiori. Io penso che sia giusto, e forse anche una certa disattenzione da parte anche della politica, penso ai blocchi contrattuali che ormai da 5 anni attanagliano la categoria, penso anche al fatto che noi oltre nel pubblico impiego siamo doppiamente penalizzati, questo non ci aiuti. Il gesto di Rimini sicuramente non va in questa direzione, né nell'aiutare la categoria, i poliziotti, donne e uomini in divisa, e nello stesso tempo non è un modo di rivendicare corretto eventuali criticità all'interno del nostro corpo. Certamente, voi però c'è chi può pensare, chi può avere questa visione. Noi, la nostra organizzazione sindacale, non ha una visione di questo genere. Noi riteniamo che se c'è un problema salariale si utilizzano gli strumenti che il sindacato democraticamente, attraverso anche le manifestazioni, può esercitare in questo senso, però ci può essere chi, coloro i quali per una loro forma anche di debolezza, ritengono che processare un poliziotto possa essere sbagliato. Questo è un errore, errore. Bonini si ricorda, ha fatto delle altre indagini in questo senso. Noi lavoriamo anche per una maggiore formazione all'interno e democraticizzazione all'interno del corpo, questo è indispensabile. No, ma questo certamente. E mi faccia un attimo concentrare e dare la parola ad Andrea Magherini, perché questa vicenda che lentamente, signor Magherini, è uscita sui giornali e poi con una più certa prepotenza, veemenza, ieri anche con la notizia dell'indagine per omicidio ai 4 carabinieri e 5 sanitari che sono intervenuti nella notte in cui morì suo fratello, insomma adesso è divenuta una vicenda che anche oggi ha grande risalto sui giornali. Intanto ricordiamo una cosa, successe il tutto il 3 marzo scorso, è così Andrea? La notte tra il 2 e il 3 marzo. Cioè, ecco, suo fratello era, da varie testimonianze, in uno stato di alterazione, confusionale, certamente era molto spaventato, pensava che qualcuno lo volesse addirittura uccidere, è così? Sì, esatto. E per questo c'è stato l'intervento, in questo caso, di una pattuglia dei carabinieri. Ci sono anche dei video, ci sono dei resoconti, dei racconti di un intervento, come dire, lo definisca lei, perché so che lei è stato proprio a bussare a tutte le porte, ai vicini, a tutte le persone che potevano aver assistito alla scena per raccogliere quello che erano le testimonianze di quel fermo. Esatto, noi siamo stati avvisati appunto dai carabinieri la mattina stessa della morte di Riccardo con delle notizie sconcertanti. Inizialmente ci è stato detto che Riccardo aveva avuto un infarto, che Riccardo aveva da pazzo, era, che faceva da pazzo, era Torso Nudo, che aveva spaccato delle vetrine, e tutto questo era un qualche, aveva rubato un cellulare, tutto questo non rispecchiava niente con quello che era Riccardo. Nessuno, chi lo conosceva, ha creduto fin dall'inizio che le cose fossero andate così. Purtroppo fa parte del solito protocollo che quando succede queste cose, succede, perché non solo muore una persona, ma la fanno morire due volte, denigrando e infangando l'onore, in questo caso, di mio fratello. La notizia dell'indagine nei confronti dei quattro carabinieri, come l'avete accolta in famiglia? Ma veramente siamo stati due mesi con l'unico indagato della vicenda, che era mio fratello, che è stato denunciato da morto. Infatti lui è morto alle 3, è stato dichiarato decesso, alle 4 è stato denunciato per rapina. Fino a ieri era solamente lui l'indagato. Noi come famiglia abbiamo deciso di denunciare le persone che erano lì e che non hanno saputo aiutare Riccardo, quindi i militari e i sanitari, sono 4 militari e 5 sanitari. Aiutare dico perché Riccardo ha sempre chiesto aiuto, le prime telefonate dei cittadini riferiscono di una persona che sta chiedendo aiuto in mezzo alla strada, con delle urla disperate. Quando Riccardo vede i carabinieri si mette in ginocchio e gli chiede aiuto, per favore aiutatemi, sono una persona per bene. Poi quei video, quelle urla strazianti, le stanno sentendo tutte, le foto del cadavere di mio fratello è sotto gli occhi di tutti. La procura esce con una nota non firmata dicendo che Riccardo non è stato fatto un intervento violento, che il suo corpo non presenta percosse, e da lì c'è stata sicuramente, prima noi, una grande indignazione, e abbiamo voluto portare questo caso all'opinione pubblica. Certo, io le faccio questa domanda. Ieri il senatore Manconi, che segue questa vicenda vostra come ha seguito la vicenda Aldrovandi, come segue altri casi, ha definito la vicenda di Riccardo molto simile, o con delle somiglianze abbastanza evidenti rispetto alla vicenda Federico Aldrovandi. Lei, perché chiaramente ora ci sarà nel caso un processo, prima di arrivare a spingersi a dire questo, laddove da un'altra parte c'è invece una sentenza passata definitiva, quindi passata in giudicato, è un'affermazione molto forte. Lei si sente di condividere questa idea? Io mi sento di condividere, appunto, come dicevo prima, che purtroppo in questi casi c'è una prassi, un protocollo che viene usato dalle forze dell'ordine. Prima di tutto le indagini vengano fatte nei primi giorni dallo stesso corpo che è responsabile del fermo, e in quei giorni immediatamente successivi. E io non trovo giusto, questa è la prima anomalia, perché se Riccardo è morto nelle mani dei carabinieri, non vedo perché devono essere i carabinieri a fare le indagini. Succede nel caso di Riccardo, succede nel caso con i carabinieri, succede nel caso di Aldrovandi con la polizia. Quindi questa è la prima anomalia che serve. Quindi lei dice, almeno bisognerebbe, almeno, che ne so, succedesse con i carabinieri, indaghi un altro, assolutamente, indaghi la polizia e viceversa, ecco, potrebbe essere. Mi sembra giusto che sia così. E nello stesso tempo Aldrovandi viene denigrato nei primi momenti come una persona che se l'è cercata, Riccardo nella stessa maniera. Insomma, stiamo ripercorrendo le stesse cose identiche, e poi noi siamo affidati al dottor Anselmo, che su questo, che è l'avvocato anche del caso Aldrovandi, ricordiamo, di Aldrovandi, di Uva, di Cucchi, purtroppo è questo. Cioè lei voi avete notato in famiglia un senso di omertà o un senso di protezione corporativa all'interno, in questo caso, dei carabinieri? È evidente, è palese ed è una cosa che ci fa rimanere basiti, perché se qualcuno ha sbagliato, noi non ce l'abbiamo con l'arma dei carabinieri, con le forze dell'ordine, ma se qualcuno ha sbagliato è bene che i primi a prendere le distanze siano gli stessi carabinieri, la stessa polizia, perché certe persone che fanno certi gesti e fanno certi interventi infangano l'onore delle persone per bene che che vestano la divisa sempre con dignità, andando incontro a dei rischi, andando incontro. Quindi la cosa che deve cambiare è prendere assolutamente le distanze da parte dei vari corpi da certi atteggiamenti. Allora facciamo così, riprendiamo tra un attimo dopo un paio di minuti di pubblicità con Andrea Magherini, voglio ricordare il fratello di Riccardo che è morto la notte tra il 2 e il 3 marzo a Firenze durante un fermo effettuato dai carabinieri. Con noi c'è anche Daniele Tissone che è il segretario generale della SILP CGL, vale a dire sindacato di uno dei sindacati di polizia. Se volete anche le vostre chiamate 800 24 0024, stiamo parlando insomma delle polemiche dopo gli applausi riservati ai quattro agenti condannati in via definitiva per la morte di Federico Aldrovandi. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:36 minuti. Io vorrei chiedere questo a Daniele Tissone. Tissone, non le chiedo ovviamente un commento sulla vicenda Magherini, che non conosce, ci sarà un processo, magari ha letto qualcosa sui giornali, ma effettivamente sarà che l'opinione pubblica se ne sta occupando di più, ma sembrano sempre più numerosi i casi assimilabili, diciamo così, Aldrovandi, ma il caso Cucchi, il caso Uva, il caso Magherini, appunto, il caso Ferrucci. Qualcuno ha ricordato a Milano, cioè di persone che denunciano i parenti di essere stati in qualche modo vittima di brutalità negli arresti e quindi aver causato la morte. Questa cosa, voglio dire, non dovrebbe preoccupare gli italiani, oppure lei dice siamo sotto attacco come forze dell'ordine, c'è questa moda tra virgolette di denunciare questi casi? Ma io direi che c'è una maggiore esposizione mediatica, c'è una maggiore conoscenza delle situazioni ed è anche giusto che sia così, bisogna fare sempre chiarezza anche all'interno di vicende come questa, dove al dolore di una tragedia, una scomparsa di una persona cara viene rinnovato per le circostanze in cui e le modalità rispetto alle quali questo avviene. Però le accuse di omertà lei come replica? Ha sentito Magherini dire, per esempio, il fatto che le indagini vengano svolte dallo stesso corpo che è intervenuto rischia di creare una, come dire, un'autodifesa magari anche umana, però non giustificabile. Ma guardi, ritengo che questo forse non sia il problema vero. Credo che innanzitutto c'è una difficoltà di fondo di intervento da parte degli operatori a intervenire in situazioni che sono difficili e difficoltose. Per questo noi abbiamo anche chiesto, abbiamo espresso la nostra soddisfazione anche quando si è sperimentato l'utilizzo dello spray al peperoncino, perché è visto come strumento di difesa anche a tutela anche degli operatori, poteva essere un intervento meno invasivo rispetto all'utilizzo della coazione della forza fisica e avrebbe potuto impedire anche ad esempio minori danni nei confronti della persona che veniva sottoposta all'arresto. Cioè, può essere uno strumento meno fisico, ecco. Esatto, diciamo che questo tutti i paesi europei e non solo europei si interrogano da sempre sull'utilizzo degli strumenti più idonei. Poi un paese rispetto a un altro anche a legislazioni diverse, voglio dire, la legislazione degli Stati Uniti d'America è molto diversa da quelle europee. E lei ha parlato anche dei feriti. Noi abbiamo rilevato un aumento anche delle violenze, questo si rileva un po' in tutta Europa, anche in Germania, anche in Gran Bretagna, nei Paesi Bassi. C'è un aumento delle violenze e anche nei confronti non solo delle forze di polizia, penso ai vigili del fuoco o al personale sanitario che interviene in primo soccorso. Ma lei dice che negli interventi non sono facili, ecco, in situazioni non sono facili, ci sono degli interventi rispetto ai quali è molto difficile riuscire a garantire, a cercare insomma di limitare il più possibile i danni per le persone vicine, per le persone fisiche, anche per gli stessi operatori. Noi rileviamo un aumento, ad esempio, nel primo trimestre dello scorso anno rispetto al primo trimestre del 2014, dell'anno in corso, dei feriti tra le forze dell'ordine, polizia, arma dei carabinieri e guardia di finanza durante le manifestazioni. Siamo passati da 64 a 110. Ma infatti abbiamo visto anche di recenti casi a Roma. Però io vorrei chiedere questo ad Andrea Magherini. Voi avete avuto accesso facile, prima ci ha parlato un po' di omertà, ai dati, cioè quando avete chiesto informazione eccetera, oppure no? Quali dati? Cioè i dati, nel senso informazioni, voglio dire, quando immagino che quando vi hanno comunicato è morto, in questo caso suo fratello, uno chieda informazioni, fatemi vedere tutto, cosa è successo. Sì, allora noi siamo entrati in possesso immediatamente dopo degli atti che erano a suo punto di tutti i documenti, erano gli atti che avevano fatto. Cioè, immagino che uno chieda di voler avere un colloquio con il capo della stazione dei carabinieri, dove è stato. È quello che abbiamo fatto, è quello che abbiamo fatto, dicendo quello che ci è stato detto, ribadendo che Riccardo era fuori di sé, che era, ripeto, a torso nudo, che andava spaccando a destra e a sinistra, cosa che poi dopo, andando a sentire testimonianze, non risultava così. Quindi poi ripeto, Riccardo stava chiedendo aiuto a tutti, gridando, urlando aiuto, quindi insomma io non vedo come possa essere questo stato certamente, anche perché molti hanno sottolineato questa cosa sul giornale, uscita credo che ci sarà l'autopsia, glielo devo chiedere, e suo fratello, qualcuno ha scritto, era assuntore di cocaina, lei ce lo può confermare o smentire, o questa vicenda? No, Riccardo poteva sì sicuramente fare qualche assumere cocaina in qualche serata, però il fatto di assumere cocaina in quel senso lì, se fosse stato quello, Riccardo era da difendere da se stesso, non nemmeno da un'altra persona, quindi è sicuramente un aggravante per le persone che sono intervenute in quel momento. A lei che effetto ha fatto vedere gli applausi, o conosce personalmente la mamma di Federico, che noi abbiamo ospitato varie volte, di Federico Aldrovandi, e che effetto le ha fatto vedere, sentire quegli applausi da parte di un sindacato di polizia? Sì, io la mamma di Aldo Brandi la conosco, di Federico, sono andato anche a parlarci, anche perché volevo sapere cosa si provava in questo, cosa aveva provato lei erano già passati qualche anno, quindi secondo me poteva esserci delle cose che poteva aiutarci a capire. Questo è stato un colloquio molto importante per noi. Per quanto riguarda gli applausi, io trovo solamente che sia vergognoso, punto. Non c'è giustificazione, anche perché quando si parla di forze dell'ordine la prima cosa che viene in mente è che le forze dell'ordine dovrebbero proteggere il cittadino, ecco, tutto qua. Ma lei, voi in famiglia cosa chiedete? Ovviamente chiedete di sapere realmente cosa è successo, chiedete di sapere se ci sono delle responsabilità, e questo è assolutamente legittimo, è assolutamente umano. Le faccio anche questa domanda: lei ha cambiato la percezione nei confronti delle forze dell'ordine da prima a dopo quella notte? Ma senta, noi siamo una famiglia che cresciamo con il nonno carabiniere, con i racconti del nonno carabiniere della Seconda Guerra Mondiale, quindi sempre molto vicini all'arma, però è chiaro che quando succedono queste cose qui ci sono più domande, ci sono più dubbi, ti casca la terra sotto i piedi, perdi i riferimenti, perché questo è successo anche a tanti testimoni che sono qua, che hanno visto la notte di Riccardo, hanno assistito a quello che è successo, sono andati dallo psicologo, non riescono a uscire più da soli di casa, anche perché spesso sono ragazzi giovani che hanno assistito a questo. È così, purtroppo. Mi faccia sentire qualche ascoltatore. Fulvio da Roma ci ha chiamato. Fulvio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì. Allora, innanzitutto volevo un forte abbraccio a fratello, insomma, della persona, insomma, del ragazzo uscito. Sì. Volevo dire che chiunque abbia visto le foto su qualsiasi sito del pubblico, insomma lì è chiaro che le forze dell'ordine, perché c'è il cellulare che va e viene, però Fulvio la sentiamo, no? La sentiamo e non la sentiamo, cioè che chi ha visto le foto le dice? C'è il cellulare che ci abbandona. Insomma, credo di aver capito che il senso fosse: chi ha visto le foto capisce che da quelle foto, Andrea, anche io le ho viste, effettivamente si vedono su dei grandi lividi, ecco, sul corpo di suo fratello. Questi lividi, secondo voi, sono compatibili a delle violenze subite? Sicuramente mio fratello non è nato con quei lividi. Fatemi sentire Giovanni da Napoli. Buongiorno Giovanni. Ah, buongiorno a tutti. No, io volevo semplicemente presentare una mia perplessità, ma anche una profonda amarezza. Intanto saluto e abbraccio con solidarietà e affetto Andrea Magherini, come la mamma di Antrovandi. su come alcuni ambienti politici hanno commentato il vergognoso applauso al congresso di USAP. Ovviamente questo vale per Antovaldi e vale per tanti altri casi. E cioè questo il punto. Io ho sentito dire da alcuni partiti politici che condannavano e stigmatizzavano l'atteggiamento dei poliziotti al congresso USAP e subito dopo però richiamavano le condizioni di profondo disagio in cui lavorano le forze dell'ordine. Io credo che questo accostamento sia scorretto, irresponsabile e molto fuorviante, perché non c'entra nulla la battaglia che stanno facendo i sindacati di polizia per adeguare le condizioni di lavoro e per migliorare l'efficienza ma anche la simpatia delle forze dell'ordine verso la cittadinanza, verso i cittadini, e l'accostamento ad alcuni atteggiamenti da condannare senza esitazione da parte di alcuni che mettono il disonore, diciamo, nelle forze dell'ordine, sia un accostamento strumentale che non faccia onore né alla politica, no, e ma non guardi, Giovanni, faccia capire alle persone. Credo che il discorso io condivido totalmente, e come diceva poco fa Daniele Tissone, insomma, è questo, no, Tissone, la questione, cioè dice le rivendicazioni non devono portare ad essere associate, come dire, a questi casi, come dire, vedete, visto che gli stipendi sono bloccati, peraltro come per tutti gli statali da anni, visto che, allora si rischia di creare quella tensione che poi viene sfogata. Questo è il discorso pericoloso, Tissone, per concludere. Ma esatto, anche perché si tratterebbe poi di una strumentalizzazione che anche nella vicenda Aldovrandi è ancora più intollerabile, perché rinnova il dolore stessa famiglia. E come io dico alla famiglia Magherini, che deve avere fiducia nell'operato della giustizia, e sono convinto che verrà accertato quanto voglio dire accaduto quella sera e quella notte. Ma poi io, rispetto ai filmati, devo dire che ho visionato anch'io quel filmato ieri sera, e effettivamente da una prima visione appare abbastanza inquietante, si sentono delle urla. Voglio però ricordare anche il famoso filmato di Cittadella, non so se si ricorda, Padova, del bambino conteso con la polizia, un altro caso, però. Dove poi anche lì è stato smontato tutta una serie. No, ma per carità, cioè nel senso, sono due casi diversi. Ora chiaramente non è che un filmato possa essere una prova inconfutabile, però certo quel filmato è impressionante, in cui si sente Riccardo Magherini urlare. Però non so se avrete fiducia o se la vostra fiducia era un po' minata, ma tornerete ad averla. Andrea Magherini, io intanto la ringrazio, seguiremo il vostro caso, questa è una promessa che posso farle personalmente, perché forse anche la fiducia si acquisisce se l'interesse mediatico rimane alto su queste vicende. La ringrazio davvero, Andrea Magherini, e così come ringrazio Daniele Tissone, segretario generale del SILP CGL. Dopo il traffico avremo con noi il sindaco di Napoli, che è già collegato, Luigi De Magistris. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Sono da lei tra un minuto, abbia pazienza. Perfetto. Eccoci qua. Allora, eccoci qua con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Buongiorno, ben ritrovato. Ma ci ha colpito queste delibere che sono state presentate con grande enfasi dal suo comune, e che qualcuno ha fatto dire: ma come, il comune fa degli espropri? Allora, vediamo se l'ho capita bene. In una delle delibere voi a Napoli decidete se uno ha un terreno, un giardino, un palazzo, un bene, un garage, un bene immobile abbandonato da anni e non appare intenzionato a occuparsene, viene invitato dal comune entro 150 giorni a adottare provvedimenti necessari al perseguimento della funzione sociale, altrimenti che fate? Ve lo prendete voi questo bene? È così, sindaco? Allora, buongiorno. Innanzitutto, in pochi secondi cerco di riassumere due delibere molto importanti che hanno tre aspetti fondamentali. Uno è questo: innanzitutto diciamo che le delibere sono frutto di un lavoro molto lungo fatto anche dall'Osservatorio Beni Comuni, hanno fatto parte giuristi, economisti, anche ex giudici della Corte Costituzionale, quindi un lavoro molto serio. Una prima parte dagli articoli 41 e 42 della Costituzione parlano appunto della proprietà privata che viene tutelata e se ne può godere quando non è in contrasto con l'utilità sociale. Allora noi partiamo da questo dato: la città di Napoli, come immagino anche altre città italiane, hanno molti beni privati abbandonati da decenni, che costituiscono un punto di degrado significativo e anche di pericolo per la sicurezza dei cittadini. In questo caso si attiva un procedimento, se il privato non dà spiegazioni, non giustifica, non dà motivazioni, insomma continua a mantenere abbandonato quel bene, noi lo apprendiamo al patrimonio del comune attraverso le consulte democratiche di quartiere, quindi attraverso i cittadini, sì. Si decide che utilizzo dare, che funzione sociale, che funzione collettiva dare, fare un teatro, fare un campo di calcio, fare una scuola. Però è un po' un esproprio, nel senso, cioè è un vero e proprio esproprio. E quello che dice, guarda, ti riporto le parole di uno dei più autorevoli componenti dell'osservatorio, il professor Paolo Maddalena, ex giudice della Corte Costituzionale, sì. Ha detto per la prima volta una delibera di giunta comunale nel nostro paese, lui diceva addirittura per la prima volta nel nostro paese in generale, si dà attuazione agli articoli 41 e 42 della Costituzione Repubblicana, cioè che la proprietà privata non è che è tutelata sempre e comunque, è tutelata, ma se un bene privato è abbandonato è più utile che venga restituito ai cittadini. Questo è un primo punto, diciamo, della delibera. Poi ci sono, se posso, altri due che pure sono molto importanti. Uno riconosce la categoria dei beni comuni. Noi come Comune di Napoli abbiamo già fatto l'acqua bene comune, abbiamo attuato il referendum. Con questo riconoscimento dei beni comuni noi facciamo sì che quei beni riconosciuti dalla giunta comunale, dall'amministrazione attraverso un procedimento come bene comune, diventano proprietà collettiva democratica, insomma con i cittadini si decide che fruizione dare collettiva a quel bene che è di tutti, quindi non è né dei privati né del pubblico, ma è un bene collettivo, quindi, della città. Che risponde a chi dice lei fa un attacco alla proprietà privata che dovrebbe essere sacra sempre rispetto alla Costituzione, se ha un bene, se ha un, diciamo, persegue un bene sociale comune, che risponde a chi dice vuol mettere le mani sui beni privati? Tenendo conto che è un tema interessante, che è anche una provocazione costituzionale, il diritto deve essere costituzionalmente orientato, leggiamo con attenzione queste norme della Costituzione, non è un attacco alla proprietà privata, è un attacco all'abbandono dei nostri territori, quindi è una riqualificazione del territorio. Nel nostro paese diciamo sempre che ci sono pezzi di territori abbandonati, che sono un pericolo, che non abbiamo reddito sociale, che i cittadini non si possono riappropriare del territorio. Io credo che questa è una bella pagina costituzionale, mi rendo conto che apre un dibattito, no, ma anche volutamente, infatti, la ringrazio pure di avermi chiamato. No, ma infatti noi siamo stati colpiti anche del fatto che non è uscita per il momento sulla cronaca, diciamo, nazionale, il Mattino se ne è occupata. Siete i primi, di questo mi fa piacere. Quanti beni privati abbandonati sui quali avete messo gli occhi ci sono a Napoli? Secondo lei è così? Avete già delle idee, no? Immagino su cosa si potrebbe... Sì, abbiamo iniziato già un'attività di censimento e sono tantissimi. Tra l'altro si inseriscono anche i beni che furono dati all'inizio del Novecento in concessione per 99 anni, quindi ci sono tantissimi beni nel nostro territorio, non solo nelle zone periferiche, ma addirittura del centro, quindi sono veramente tanti, e quindi è iniziata l'attività. Più o meno come numero, cioè giusto per capire, sono diverse unità, varie decine? Parliamo di decine e decine, di aree abbandonate, veramente tante. Tenete presente che dall'8 aprile è entrata in vigore anche la legge sulle città metropolitane, quindi questo discorso si può estendere anche alle aree urbane grandi, pensiamo a Napoli, Milano e Roma. Quindi insomma, è un tema molto interessante che adesso insomma attiviamo e abbiamo attivato subito. E poi c'è un altro aspetto dell'ultimo, e chiudo, della legge, pure della delibera pure importante, che è quello legato alla valorizzazione di sperimentazioni di autogestione dal basso di beni della città, che almeno nella città di Napoli da tanto tempo si fanno, cioè zone degradate, ruderi diroccati o aree dismesse che da tempo vengono autogestite da persone della nostra città che fanno attività sociale, teatrale, culturale, e quindi queste sono, diciamo, delle forme di case del popolo partecipate che noi vogliamo valorizzare con queste delibere. Vabbè, insomma, Luigi De Magistris dirà, lo dipingeranno, no, come colui che rimette quella bandana arancione per... non c'entra la bandana, però intanto la ringrazio, sindaco, vedremo insomma se questo aprirà un dibattito, anche questo invito alla Radio 24 su queste delibere che avete adottato in comune e che verranno presto, immagino, convertite in consiglio comunale. Intanto la ringrazio. Noi non ci fermiamo, ci fermiamo temporaneamente per il giornale radio, ma oggi, così come anche domani, arriveremo fino alle 9:30. Tra l'altro riprenderemo dopo il giornale radio col ministro all'agricoltura Maurizio Martina. Siamo a un anno dall'Expo, faremo il punto tra poco. Ventiquattro mattino, l'Italia si desta. Siamo qui, sono le 9:07 minuti, come detto fino oggi e domani andremo avanti fino alle 9:30 con 24 mattino. Allora, ben ritrovati da Alessandro Milan. E che dire, cari ascoltatori, vogliamo parlare un po' di Expo, perché avete sentito, manca un anno esatto a questa esposizione mondiale, esposizione che durerà 184 giorni e ovviamente sulla quale ci sono gli occhi del mondo puntati sull'Italia. C'è una persona, un politico, che se ne sta occupando come tanti, ma anche più degli altri, se è vero che è stato anche sottosegretario del precedente governo con delega sull'Expo. Ora è il ministro alle politiche agricole Maurizio Martina, che è con noi, e lo saluto. Grazie ministro e buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, manca un anno, guardi, non so se ha già letto oggi il Sole 24 Ore, non è molto tenero a scrivere il programma dell'Expo rispettato solo a metà. Le chiedo anche questo, il presidente di Confindustria Squinzi ha detto ce la faremo col genio italico, ma perché dobbiamo farcela sempre col genio italico e non riusciamo mai a essere un paese tra virgolette normale nel rispetto delle procedure? Beh, questa è una bella domanda. Ce la faremo, e ce la faremo perché ci lavoriamo tutti i santi giorni con tutta la caparbietà che abbiamo. Negli anni scorsi si sono persi, purtroppo, sono perso diverso tempo, i litigi, beghe tra istituzioni, insomma la conosciamo un po' tutti la storia. In questi mesi secondo me noi abbiamo recuperato molti ritardi, dopodiché non c'è da perdere un minuto, per cui davvero con questo spirito lavoriamo i prossimi 365 giorni. Questo certamente. Senta, ieri il commissario dell'Expo Sala ha fatto questa cifra che ho letto sul Corriere della Sera: è possibile avere un posto di lavoro per centinaia di migliaia, addirittura 190.000 posti di lavoro. Questo, di questi tempi soprattutto, potrebbe essere una grande occasione. A che posti di lavoro si può presumere di pensare? Ma guardi, questa è una stima che è stata costruita da la Camera di Commercio di Milano con l'Università Bocconi, incrociando diversi dati. La cosa che mi piace sottolineare, tanto per stare sul concreto, che già oggi per Expo lavorano più di 1.000 imprese, e già oggi quindi l'effetto, diciamo, di sostegno un po' allo sviluppo e all'indotto economico anche territoriale è rilevante. Poi abbiamo grandi sfide, l'idea di poter incrociare 20 milioni di visitatori per 6 mesi di per sé è una grandissima opportunità, può generare come immaginabile risvolti sul piano occupazionale, turistico, ricettivo, insomma dobbiamo lavorarci su. E dobbiamo sapere che quando oltre 140 paesi vengono qui e investono praticamente 1 miliardo di euro per la loro partecipazione, già questo è un dato molto significativo. Certo. Senta, lei ha già ribadito ce la faremo con i lavori, come si pensa di recuperare il tempo perduto? Cioè, perché chiaramente ho sentito che si lavorerà 365 giorni, notte e giorno, sì. Quindi come si pensa di poter recuperare il tempo? Ovviamente velocizzando il più possibile, anzi diciamo moltiplicando il più possibile gli sforzi. Innanzitutto operativi di cantiere, già oggi credo che ci siano turni organizzati per 20 ore su 24 ore complessive, c'è un rafforzamento complessivo delle squadre presenti sul cantiere, c'è un'attività intensa da parte di tutte le istituzioni, dal Comune di Milano che proprio ieri ha presentato il programma di eventi per Expo da qui al prossimo anno, Regione Lombardia, il governo stesso sta facendo la sua parte. Io non credo che noi dobbiamo inventarci, diciamo, cose nuove, strumenti nuovi, dobbiamo fare bene tutti insieme il lavoro che ciascuno questo ha. Certamente. Ma è prevista anche, per esempio, dal punto di vista governativo, una qualche legislazione ad hoc? Perché per esempio sempre ieri Sala ha chiesto una task force alla presidenza del Consiglio per affrontare per esempio i temi, sì, della burocrazia. Cioè, ma avete allo studio qualcosa? Sì, sì, abbiamo allo studio, guarda, più che allo studio adesso dobbiamo rendere praticabile nel giro di pochi giorni un'unità di lavoro nazionale insediata lì alla presidenza del Consiglio con 3-4 figure che ci aiutino a fare un'operazione di accompagnamento quotidiano, di coordinamento quotidiano di tutti i provvedimenti, le misure, i contatti, le scelte che devono essere istruite giorno per giorno dal livello nazionale. ovviamente quando parliamo di un appuntamento come questo stiamo parlando veramente di dossier anche molto complicati. Ah, chiaro. Ma sono già state identificate queste persone? Ci stiamo lavorando, saranno persone della struttura, ci sono grandi professionalità che possono darci una mano. Nel giro di pochi giorni noi avvieremo questa unità di lavoro che, ripeto, deve essere maledettamente concreta. Questo certamente. Senta, la sfida, ministro Martina, è proprio quella del cibo, cioè il cibo è al centro, no, di sì. Expo, e soprattutto il cibo come cercare di risolvere il problema degli squilibri mondiali dell'alimentazione. Ci sono 870 milioni di persone, si stima, al mondo che non hanno accesso al cibo. Ecco, ma come mai una kermesse del genere può risolvere un problema invece così, così grave? In quale senso si può affrontare attraverso una kermesse come Expo un problema così serio? Il tema è dirompente e lo è a prescindere da Expo. Basti solo pensare che le organizzazioni, le Nazioni Unite, nella discussione sui prossimi obiettivi del millennio, ovviamente stanno lavorando molto su questo tema della fame nel mondo e degli equilibri alimentari. Il grande tema della sicurezza alimentare globale ormai sta diventando un tema geopolitico a tutti gli effetti. Expo può essere un'occasione formidabile per contribuire alla discussione che i grandi del mondo e i paesi emergenti stanno già facendo su questo fronte. Basti vedere quello che sta accadendo, grandi nuove potenze che vanno a comprarsi centinaia e centinaia di ettari di terra in altri continenti, in particolare in Africa, per garantirsi sicurezza alimentare, approvvigionamento alimentare. Basti vedere questa contraddizione clamorosa tra obesità e manutenzione. Noi abbiamo 1,5 miliardi di persone obese e, come diceva giustamente lei, più di 800 milioni ancora malnutrite. Expo potrà essere, proprio per la sua natura di grande piattaforma di dialogo e discussione, un'opportunità per avanzare su questi fronti, cioè, provare anche a concertare qualche misura, provare a immaginare cosa si può fare insieme. Però per esempio un grande tema che si dibatte a livello mondiale, non solo in Italia, è quello dell'utilizzo degli OGM. Ci saranno anche molti paesi che utilizzano, no, gli organismi geneticamente modificati. Da questo punto di vista, qual è il punto di vista dell'Italia in un ambito europeo e se c'è una preclusione totale oppure una possibile apertura in futuro? Guardi, allora, intanto Expo per sua natura è una piattaforma di dialogo aperto, per cui non c'è nessun dubbio sul fatto che noi incroceremo in quei 6 mesi paesi che da tempo lavorano con gli OGM e paesi che da tempo invece hanno fatto una scelta diversa. Quindi nessun dubbio sul fatto che lì debbano essere promosse tutte le idee, quello è veramente un luogo del dialogo e del confronto. L'Italia storicamente, come noto, ha una sua posizione, una posizione che va oltre il tema OGM. Ancora recentemente il Parlamento a grandissima maggioranza si è espresso dicendo che l'Italia, per il suo modello agricolo, per le sue tipicità, per le caratteristiche anche economiche e sociali del nostro territorio, può lavorare oltre il tema OGM. Noi in chiave europea stiamo sostenendo la proposta della presidenza greca, che sostanzialmente mira a riconsegnare agli stati un'autonomia di decisione su questo fronte. Sì. E l'autonomia, l'autonomia all'Italia, per esempio, su che posizione lei la collocherebbe? Beh, su una chiusura? Come oggi non c'è alcun dubbio che l'Italia è contro l'utilizzo degli OGM in sede nazionale e territoriale. E secondo lei è giusto dal punto di vista anche suo personale di ministro? Io penso che oggi sia giusto così. E dopodiché mi interessa aprire una discussione su come noi possiamo potenziare e sviluppare ricerca anche in campo agricolo, andando oltre il tema OGM sì, OGM no. Ci sono anche oggi, già oggi, tecnologie, sperimentazioni, possibilità che ci possono far lavorare sulla ricerca in campo agricolo andando oltre il tema OGM. E mi piace pensare che l'Italia possa trovare una sua via per investire in ricerca da questo punto di vista, bypassando questa discussione sul sì e sul no. Ma oggi come oggi non c'è alcun dubbio che noi dobbiamo secondo me, consolidare questa posizione e quindi andare oltre. Le ultime due domande sono: la prima, in che cosa vede effettivamente il ritardo maggiore sul quale bisogna concentrarsi, magari dal punto di vista infrastrutturale, di opere? Ce ne sono tante, oggi appunto c'è un dossier del Sole 24 Ore. Secondo lei, da ministro, quale vede con maggiore preoccupazione, a dire accidenti, lì dobbiamo veramente dare una scossa, altrimenti... Ma guardi, non, sul piano infrastrutturale ci sono tecnici ed esperienze che possono più di me dare un'indicazione precisa sulle priorità, sicuramente sì. Il commissario unico, io non mi ci metto a dare una scala, diciamo, di priorità. Credo naturalmente che il primo tema sia il sito espositivo e quindi tutta l'area di racconto dell'esposizione universale e le sue infrastrutture, diciamo, immediatamente prossime. E quindi tutti quei collegamenti anche di breve raggio che però consentono una connessione al sito espositivo fluida. Poi ci sono, lo sappiamo, sul territorio lombardo da anni grandi questioni aperte che non si sono ancora risolte. Se penso ad esempio a Pedemontana, noi stiamo parlando di uno dei più grandi interventi autostradali, stradali d'Italia, 4 miliardi di euro di costo, una complessità anche progettistica, tecnica, molto, molto, molto delicata. È chiaro che su questo gli stati di avanzamento sono complicati e insomma si sta andando avanti difficoltà, certo. Ma con un piano di lavoro su questo c'è stata anche una polemica, credo, ieri verbale tra il presidente Renzi e il presidente della regione Lombardia Maroni sull'utilità di questa pedemontana. Il suo parere? No, beh, mio Dio, la discussione mi pare fosse tra il sindaco di Milano sì. E il presidente della regione, ma io ribadisco che pedemontana è un'infrastruttura importante per l'assetto complessivo viabilistico della Lombardia, e credo che con tutte le difficoltà del caso però bisogna andare avanti spediti nel lavoro. E l'ultima domanda è: a chi invece critica l'utilità di Expo? Avrà visto anche le critiche molto dure di Beppe Grillo, è vero, siamo in campagna elettorale di recente, a parlare anche del rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, il rischio insomma di un'occasione che non sarà un'occasione vincente per l'Italia. Cosa risponde? Beh, che io la penso in maniera molto molto diversa. Penso che l'Italia abbia bisogno di misurarsi con un evento di questa portata. Non credo che questo evento risolverà tutti i mali di questo paese, ma per una volta ci potrà far alzare lo sguardo, ci potrà far misurare con 140 paesi per 6 mesi, ci potrà mettere in competizione anche con modelli, con idee differenti. Insomma, io credo che veramente noi dobbiamo avere l'orgoglio di ospitare un appuntamento del genere su un tema così incredibile, così decisivo per il futuro del mondo da qui ai prossimi anni. E questo certamente. Io intanto, ministro, la ringrazio, ovviamente manca un anno, in bocca al lupo che facciamo un po' a tutti noi. Per una volta insomma il paese dovrebbe essere certamente, su questo concordo, orgoglioso di un appuntamento da sfruttare al meglio. Grazie al ministro Maurizio Martina per essere stato con noi, ministro delle politiche agricole, e negli ultimi 10 minuti di trasmissione vogliamo concentrarci su quella che è l'attualità per molti giornali, l'apertura addirittura, e cioè ieri, per carità, non ci sono stati decreti legge, non ci sono stati annunci di disegni di legge parlamentari, non ci sono stati provvedimenti presi, questo succederà a giugno, ma ci sono stati annunci di come cambierà la pubblica amministrazione, ci sono stati annunci a 360 gradi. Ne vogliamo discutere con Alberto Saravalle, è venuto a ritrovarci, professore di diritto europeo a Padova. Buongiorno professor Saravalle, eccoci qua. Buongiorno e grazie per l'ospitalità. Voglio ricordare anche che ha un blog sull'Huffington Post, cofondatore anche del think tank liberal democratico Italia Aperta. Allora professor Saravalle, intanto veniamo al metodo. Tanti annunci e poca ciccia, oppure insomma non è che si può pretendere tutto e subito? Poi veniamo. No, io credo che il metodo sia nel complesso positivo. Certo, siamo ancora agli annunci, però il metodo è positivo per 4 ragioni. Primo, si tratta di finalmente di un provvedimento, o almeno di provvedimenti attesi, ad ampio raggio. Finora si era parlato solo per degli aspetti economici, compensi degli stipendi che poi toccano poche persone. Qui invece abbiamo dei provvedimenti che riguardano la valorizzazione delle persone, il taglio degli sprechi e la digitalizzazione. Ovviamente veramente i provvedimenti sono dica no scusi no ho quattro punti. Il secondo punto è che questi provvedimenti hanno anche una funzione, se vuole, pedagogica, un po' come come l'educazione civica a scuola. Sì. È chiaro che non potranno sortire effetti immediati, ma nel medio termine, però è importante cambiare la mentalità. Ci vuole del tempo, perché la gente non butti la cicca per strada, però col tempo può servire. Poi secondo me anche Renzi mostra di avere il coraggio, questo, di toccare dei settori che parevano privilegiati, anche questo mi pare importante. Per esempio i dirigenti? Per esempio i dirigenti pubblici. Ci sarà la licenziabilità per i dirigenti, ecco, è un aspetto positivo secondo lei o no? Ma l'aspetto non è la licenziabilità, l'aspetto positivo è che dovremmo riportare anche il settore dell'amministrazione pubblica nella logica della competitività interna. Un esempio banale per spiegare a tutti, anni fa il ministro Brunetta aveva introdotto una componente variabile nella remunerazione dei dirigenti, che sembra giusto, diciamo, chi fa bene può prendere di più rispetto allo stipendio di base. La prendono tutti. Di fatto, secondo quanto ha detto l'autorità anticorruzione, i parametri sono stati fissati in maniera molto bassa e sono gestiti, il 90% prende prende il bonus. Che vuol dire che sono tutti bravi? Oppure c'è qualcosa certo, che non va? No, per esempio, 80.000 esuberi è questa cifra negli statali che ha detto il commissario Spending Review Cottarelli. Renzi ha detto una cifra teorica. Allora, abbiamo sempre detto che non sono troppi rispetto alle medie europee i dipendenti pubblici italiani, forse è una questione di efficienza, ma questi 80.000 sono esuberi, invece no? No, non sembra che lo siano per il momento, si parla di 10-15.000 persone che potrebbero, diciamo, entrare nella macchina a seguito, diciamo, delle misure sulla, ci chiamiamo la cosiddetta staffetta, cioè il fatto che non vengano prorogati per oltre 2 anni quelli che hanno già raggiunto l'età pensionabile. Il problema secondo me veramente non è non sono gli esuberi, il problema è riuscire a dare competitività a una macchina che è stanca, nella quale sostanzialmente non si cerca di valorizzare le persone e alla fine le stesse persone sono demotivate e sono percorsi che poi vediamo quello che succede. No, ma è chiaro. È chiaro, no, ma su questo sì, l'efficienza della pubblica amministrazione la possiamo toccare con mano, o meglio, l'inefficienza quotidianamente. Ma senta, costa. È certo che costa. Lei ha parlato anche, accennato alla staffetta generazionale. Il ministro Madia in un'intervista oggi a Repubblica ha detto anche nell'ospedale dove ho appena partorito, le infermiere, a mia domanda specifica, sarebbero contente di poter lasciare idealmente alle loro figlie, ai loro figli, il posto di lavoro e andare magari in pensione un po' prima. Ma questa staffetta generazionale cosa vuol dire, e davvero le persone sono disposte a questo tipo di discorso secondo lei? Io sono meno questa è la parte che mi convince di meno dell'impianto della riforma, perché mi pare un po' più ideologica che concreta. Se la staffetta vuol dire che quando le persone hanno raggiunto l'età pensionabile nel complesso non si tengano all'interno dell'amministrazione, salvo casi dove effettivamente un'esperienza acquisita è importante e può essere utile, mi dicono che al Tribunale di Milano ci sono i cancellieri di una certa età che conoscono benissimo, diciamo, la storia, e quindi magari non è opportuno necessariamente che vadano via, però in generale farne una battaglia ideologica credo che sia sbagliato. Credo che sia importante avere strumenti di mobilità, spostare le persone dove servono, non tenerle. Poi se ci sono degli esuberi, ci sono degli esuberi, ma prima di tutto diamo efficienza alla macchina. No, infatti su questo lei dice ideologica, in realtà è un modo, a parte per il governo, per creare dei posti di lavoro, però è il modo più efficace? Dei posti di lavoro giovani e nuovi ovviamente. Non credo che sia necessariamente il modo più efficace, credo che certamente può creare questi 10.000 posti, penso che ci possano essere effettivamente, ma non credo che si possa trattare la macchina dell'amministrazione come un moloch unico, e quindi bisogna trattare diversamente le diverse situazioni. Sicuramente l'avere per esempio l'introdurre delle misure di mobilità, il riportare un ruolo unico della dirigenza, abolire le fasce, serve in questo senso a dare credibilità. Certamente sì. E per concludere, professor Saravalle, c'è anche la questione dei tagli. Ecco, sui tagli vede abbastanza coraggio oppure no? Si parla di ridurre le prefetture da 100 a 40, si parla di unificare ACI, PRA e motorizzazione, ma se ne parla da quando siamo nati, non lo so, da quando sono nati loro, non lo so. Anche io sono nato molto prima di lei. No, non lo so, non so quando sono nati l'ACI, il PRA, la motorizzazione, però da quando sono nati si parla di unificarle. Più o meno. Ma io credo che è un antipasto questo, diciamo, non è chiaramente qui che si può esaurire il discorso dei tagli, è sicuramente un qualcosa di utile, ci sono degli sprechi da questo punto di vista. Credo che la parte, diciamo, più, se vogliamo restare nell'ambito culinario, se questo è l'antipasto, quello che è, come dire, la pietanza principale dovrebbe essere la riduzione delle aziende municipalizzate. È lì che effettivamente si può tagliare e ci sono dei costi importanti. Tutto il resto, siccome ci ha messo la faccia, diciamo, Renzi annunciandolo, però non ci saranno delle resistenze, non è una cosa di immediata. La palude romana, ci sarà quella. No, sulle municipalizzate, guardi, lei ha toccato un tasto dolente, sono circa 8.000, si parlava nei precedenti consigli di ministri di poter anche prendere provvedimenti, non so, per quelle municipalizzate da 2 anni in rosso di bilancio, obbligarle almeno a una privatizzazione, a una vendita, a una chiusura, a una dismissione, ma lì lo sappiamo, caro professor Saravalle, sono anche dei posti dove mettere tanti bei politici trombati e quindi non è facile andare con la mannaia su queste società. Io mi devo fermare, la ringrazio professor Saravalle per essere stato con noi, sempre molto gentile, esaustivo e nelle spiegazioni preciso. Io mi fermo, come detto. Anche domani arriveremo, così sforeremo un pochettino fino alle 9:30, poi rientreremo in noi da lunedì dalle 6:30 normali. Comunque domani 24 mattino in diretta dalle 7:15, quindi partiamo un po' dopo e arriviamo un po' dopo fino alle 9:30. Ringrazio Miriam Lucchetti, Anita Panizza, Alessandro Marcotulli in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè lì in regia. A domani 7:15.